Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, puntata di domenica 7 febbraio. Perché vi dico la data questa mattina? Perché sfogliando i settimanali, sfogliando i mensili che sono usciti in questi ultimi giorni, ho fatto caso alla quantità di annunci pubblicitari collegati a una festa che sta per arrivare. Una festa che in realtà è una festa di importazione, si tratta di San Valentino. Tra 7 giorni esatti è il 14 di febbraio. I settimanali, i magazine, devo dire non solo quelli italiani, sono abbastanza affollati di proposte per festeggiare San Valentino. Lo dico anche a beneficio dei colleghi uomini che fossero in ascolto: è una festa di cui magari tendiamo più noi maschi a dimenticarci di quanto non facciano invece le signore e le signorine. Allora, ho trovato però anche delle indicazioni, diciamo non per gli acquisti, ma di ragionamento sul rapporto di coppia. Le ho trovate su due femminili, ve le propongo entrambe. Comincio da Vanity Fair. Vanity Fair che presenta una indagine condotta dall'Ipsos, un sondaggio, speciale San Valentino. Il titolo è già abbastanza incoraggiante, dice: l'amore è maschio, più Romeo che Giulietta. Il 73% degli italiani oggi si dice innamorato, gli uomini più delle donne e nel Triveneto più che nelle regioni rosse. Questo legame, devo dire, tra la politica e la capacità di innamoramento onestamente mi era finora sfuggito. Però vi do qualche altro dato: è stato chiesto quante volte è stato realmente innamorato o innamorata. Gli uomini sono diciamo più propensi a rispondere più di due volte, perché la percentuale più alta, cioè un terzo delle risposte, dice più di due volte sono stato realmente innamorato. Quando la stessa domanda è posta alle donne, le donne in un caso su due e anche di più, 53% dei casi, dicono solo una volta nella vita, non di più. E in questo momento, ed è la domanda che dà il titolo al servizio, in questo momento è innamorato o è innamorata? Beh, il 75% degli uomini, quindi 3 uomini su 4 nel campione sentito dalla Ipsos, hanno risposto sì, e invece il 70% delle donne, quindi un po' meno, un po' più bassa la percentuale delle donne, hanno risposto sì. Hanno detto di no praticamente tutti gli altri. Le donne in qualche caso sono state più ritrose e solo il 6% ha preferito non dichiarare. Probabilmente ci deve pensare o sta aspettando appunto San Valentino per vedere se il regalo o la memoria del partner sarà sufficiente a dichiararsi innamorata o meno. Che relazione ha con la persona di cui è innamorato o innamorata? Sono sposati o conviventi il 59% delle donne, il 56% degli uomini. Quando questi numeri poi non combaciano, uno si chiede sempre come questo sia possibile, però è quello che trovo su Vanity Fair e quindi ve lo riferisco. Nell'articolo che è stilato dallo stesso Nando Pagnoncelli, che poi ha condotto il sondaggio, dice: 73% degli italiani, praticamente 3 su 4, dichiara in questo momento di essere innamorato. Gli uomini in testa, si registrano punte di oltre l'80% tra gli uomini tra i 35 e i 54 anni, in modo abbastanza trasversale: impiegati, insegnanti, commercianti, artigiani, lavoratori autonomi. Il nord-est del paese è la vera patria di Cupido. L'86% dei residenti maggiorenni si dichiara innamorato, contro il 68% del centro nord, che invece si dichiara, solo questa percentuale che si dichiara innamorato. La stragrande maggioranza degli innamorati dichiara di esserlo del proprio coniuge, e qui devo dire è un bellissimo dato, o forse temevano che il sondaggio non fosse così anonimo come pensavano che fosse, perdonate la facezia. Vi voglio passare però allora, proprio su questo tono un po' leggero, a quello che ho trovato su Donna Moderna, perché Donna donna moderna segnala una nuova nevrosi di coppia. Non vorrei guastare la festa, appunto, ripeto, tutto questo in funzione dell'avvicinamento a San Valentino, però donna moderna ci dice che c'è una nuova nevrosi di coppia, si chiama eco-incompatibilità. Di cosa si tratta? Si tratta della differente sensibilità nei confronti dell'ambiente che possono avere i due componenti di una coppia. Quindi c'è un allarme addirittura, così appunto scrive Lavinia Ritatore su Donna Moderna, che sta arrivando, manco a dirlo, dall'America. La raccolta differenziata o lo spreco dell'acqua oggi sono una inesauribile fonte di liti tra lui e lei, tanto da far aumentare i divorzi. In Italia non siamo ancora a questo punto, ma il nostro sondaggio, anche qui abbiamo un sondaggio a cui viene appoggiato questo servizio, il nostro sondaggio rivela che sull'ambiente le donne sono molto più attente degli uomini e che certi menefreghismi degli uomini proprio non vengono sopportati. Vi leggo qualche indicazione di questa particolare motivo di attrito nei matrimoni, nelle coppie. Il sondaggio realizzato da SVG di Trieste per Donna Moderna su un campione solo di donne segnala che la raccolta differenziata viene praticata da lei al 37% dei casi, mentre lui la pratica solo al 3%. Qui non voglio fare polemica, ma il fatto che rispondessero solo donne mi dà da pensare che non è detto che sappiano esattamente se poi il coniuge, il marito e il fidanzato, insomma, fanno o no effettivamente la raccolta differenziata, però non voglio contestare assolutamente il dato. Chi non spreca l'acqua? È stato chiesto sempre lei, 39% dei casi, più o meno lo stesso risultato sul fronte del risparmio dell'energia elettrica. Insomma, i compagni di queste signore che sono state interpellate per il sondaggio effettivamente non brillano per sensibilità ecologica, non fanno raccolta differenziata, sprecano acqua, lasciano accese tutte le luci di casa. E quindi non poteva essere altrimenti, quando si arriva alla domanda: ma lei potrebbe stare con un uomo che non ha nessuna sensibilità per l'ambiente? La risposta è stata schiacciante, in maggioranza, come si dice, bulgara. Hanno risposto di no l'86% delle interpellate. Quindi noi altri uomini impariamo ad essere sensibili con l'ambiente, oppure ci troveremo effettivamente in difficoltà con le signore. Il primo allarme, poi torniamo su questioni che poi sono leggere fino a un certo punto, arriva come al solito dagli Stati Uniti. Secondo uno studio che è stato realizzato alla Drexel University di Filadelfia, ci sono oggi ai primi posti nella classifica delle cause che portano alla crisi di coppia e fanno moltiplicare i divorzi anche le questioni di eco-incompatibilità. Se uno dei due partner fa di tutto per salvare il pianeta e l'altro è allergico alla suddivisione tra carta e plastica, beh, ci si ritrova verdi, sì, ma di bile. E non solo, c'è anche un'associazione californiana, sapete che la California è particolarmente sensibile alle questioni ambientali, un'associazione californiana che raccoglie le madri in prima linea nella difesa dell'ambiente. E questa associazione cosa ha fatto? Una cosa importante da segnalare: ha invitato le proprie associate a non esagerare nell'imporre uno stile di vita ecologico al consorte, altrimenti se lui sta mezz'ora sotto la doccia tiene accese tutte le lampadine di casa perché altrimenti si sente triste, il rischio divorzio si trasforma in certezza. In modo confortante l'avvocato divorzista Patrizia Titone, italiana, sentita appunto da Lavinia Ritatore per Donna Moderna, dice: non ho ancora avuto casi di questo tipo, ma non mi stupirei se succedesse domani, perché chi ha sviluppato poi una forte coscienza ecologica vuole avere abitudini coerenti con ciò in cui crede, e quindi entrano in ballo scelte molto importanti per la coppia: l'alimentazione, la spesa, la meta delle vacanze, il tipo di autovettura da comprare e anche naturalmente l'educazione dei figli. Questo ultimo dato dell'educazione dei figli diventa poi uno dei motivi di attrito maggiore, come poi dimostrano anche le domande che sono state poste nel sondaggio. Ripeto, da queste domande emerge una certa insensibilità ambientale. Il lui della coppia tende a utilizzare l'auto anche se non è indispensabile in un caso su tre, non è particolarmente attento alla raccolta differenziata, però si riscatta quando si tratta di scegliere un elettrodomestico sulla base dei consumi energetici. Ci si preoccupa, rispondono le interpellate tutti e due allo stesso modo. Questa è una risposta che arriva dal 63% dei casi. Nessuno dei due invece sembra porsi nel 40% dei casi il problema di quanto inquina l'automobile che si vuole comprare, oppure c'è un contrario con 32%, ci si preoccupa entrambi allo stesso modo di quanto inquina un'automobile che si vuole comprare in coppia. Il comportamento che sta più a cuore al partner, nella maggioranza dei casi, in un caso su tre, è quello di risparmiare energia. E poi, appunto, alla conclusione di tutto, chi pensa che siano più attenti all'ambiente, gli uomini o le donne? Le donne per il 38% degli interpellati, anche se un confortante 59% risponde: ma è indifferente, non sono questioni in cui bisogna farne un problema di genere. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di coppia, stavamo parlando di vita di coppia e di ambiente. Allora, tornando leggermente indietro con una pubblicazione straniera, l'Economist, però proprio dell'ultimo giorno di gennaio, ho trovato una segnalazione curiosa, un allarme che poi probabilmente rivedremo ripreso anche dai periodici di lingua italiana. C'è una certa preoccupazione per le sostanze ignifughe. Ora bisogna anche capire che per i paesi di lingua inglese, l'Inghilterra ma anche gli Stati Uniti, il Regno Unito ma anche gli Stati Uniti, la paura, la preoccupazione per gli incendi è molto superiore, anche per l'utilizzo di legno nella costruzione delle case, maggiore rispetto a noi. Però appunto, data questo, l'uso molto molto comune di sostanze ignifughe da preferire nella scelta, che so, delle coperte o di altri materiali di cui ci si circonda in casa. Qual è l'allarme, però, fate tutte queste premesse? Che le sostanze ignifughe possono avere un effetto negativo sulla possibilità, sulla fertilità femminile. Questo almeno è quello che si è cominciato a studiare all'Università di Berkeley in California. Ci sono stati dei test condotti sugli animali e hanno visto che alcune di queste sostanze possono essere dannose per questioni neurologiche e collegate appunto alla riproduzione. Qual è il problema? Che c'è la necessità di approfondire molto molto molto questi studi, perché secondo un dato che viene sempre segnalato dall'Economist, nel 97% dei casi le abitazioni americane hanno sostanze ignifughe, parlo di stoffe, tessuti in genere, mobili, presenti in larga quantità. Quindi questo tipo di segnalazione negli Stati Uniti ha creato un comprensibile allarme. Allora, lasciamo gli allarmi degli Stati Uniti, occupiamoci di cose più liete, più leggere e divertenti. Questa settimana, intendo la prossima settimana, ci saranno le Olimpiadi, si apriranno dal 12 di febbraio le Olimpiadi di Vancouver. A questo evento dedica un inserto Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana questa settimana dedica un inserto aperto da un articolo di Giampaolo Ormezzano, firma storica del giornalismo sportivo, proprio alle Olimpiadi di Vancouver. I numeri di questi giochi del 2010 prevedono tra l'altro la partecipazione di 5.500 tra atleti e componenti delle delegazioni ufficiali. Ci sono 80 paesi in gara, ripeto tutto questo dal 12 febbraio, ci sono 86 titoli olimpici da assegnare, andranno avanti le gare per 17 giorni, quindi fino al 28 di febbraio, fino all'ultimo giorno di febbraio. Si attendono 25.000 volontari e sono stati accreditati 10.000 giornalisti, il dato è indicato, immagino, arrotondando. Sempre sfogliando in questo speciale di Famiglia Cristiana dedicato alle Olimpiadi di Vancouver, vi vorrei segnalare che la nazione che è più titolata quanto medaglie olimpiche invernali è la Norvegia. La Norvegia ha vinto 280 medaglie olimpiche invernali dal 1904 fino al 2006. L'Italia sta all'undicesimo posto, in questa classifica poi in realtà per ragioni storiche rientrano anche l'Unione Sovietica e la Germania Est. L'Italia sta all'undicesimo posto, dicevo, con 101 medaglie, così composte sono 36 ori, 31 argenti, 34 bronzi. Il più titolato della storia, l'atleta delle Olimpiadi più titolato della storia, è un norvegese, un fondista, Bjørn Dalje, ha vinto 12 medaglie complessivamente. Tutto questo è segnalato, tutto questo e molto altro in realtà è segnalato da Famiglia Cristiana in questo inserto che si apre con una bella foto di Carolina Kostner, una delle atlete che sicuramente attendiamo con maggiore curiosità proprio a queste Olimpiadi. Ma alle Olimpiadi di Vancouver naturalmente dedica uno spazio anche Sorrisi e Canzoni TV, settimanale tra i più diffusi proprio per le questioni legate ai programmi televisivi, che segnala, aprendo le sue pagine dei programmi, proprio quali possono essere le gare da non perdere. E questo allora diventa importante perché cominciamo a ragionare degli orari in cui potremo seguire queste gare. Il sabato 13 alle 20:45 discesa libera maschile, e poi sempre tra le 19 e le 21:30, alle 8, insomma in orario decisamente serale, quando non addirittura notturno, ahimè, ci sono le gare più importanti, gli slalom naturalmente, il super G, l'hockey e tutto il pattinaggio e tutte le altre gare che contraddistinguono le Olimpiadi invernali. Visto che parliamo di sport, ho trovato su Newsweek questa settimana un articolo scritto da quello che viene definito il più grande running back di tutti i tempi. Marcus Allen è il suo nome, running back è un ruolo nel football americano, è un compito che si assegna a uno dei giocatori del football americano. Di che cosa si occupa Marcus Allen in questa veste di giornalista? Del problema degli scontri e degli effetti degli scontri nel football americano. Probabilmente avete presente di quanta violenza sia capace questo tipo di sport, uno sport dove il contatto fisico è in qualche modo esaltato, al punto che infatti i giocatori già di per sé molto ben strutturati vestono anche una corazza, delle coperture adeguate per evitare danni. Ecco però cosa succede, avverte Marcus Allen proprio su Newsweek, che ci si comincia a domandare se ci possano essere degli effetti di lungo termine collegati agli scontri di gioco, scontri che sono decisamente molto molto importanti. Tra l'altro lui dice è un bene che questo cominci a venire alla luce, perché per molti anni, e riferisce anche della sua personale esperienza, si è cercato invece di sposare la tesi del giocatore di football americano sostanzialmente invincibile e invulnerabile, tanto che lui dice non appena cadevo tutto quello che mi hanno sempre insegnato a rialzarmi subito, non fargli mai capire che ti hanno colpito, era la frase che gli allenatori ripetevano sia iniziando questo sport sia arrivando agli altissimi livelli raggiunti da Allen. Lui dice il football americano rimane un gioco duro, un gioco molto ruvido, e i giocatori continueranno a colpirsi duramente e a prendersi dei rischi tutte le volte che scendono in campo. Però dice non c'è un modo da parte della federazione di in qualche modo intervenire normativamente, di vietare gli scontri, però è importante che si prenda coscienza che questi scontri possono avere poi degli effetti. Lui stesso, appunto, tornando sulla sua propria esperienza, dice: mi è capitato di subire un brutto colpo in una partita e di essere trasportato fuori, non ero in condizione assolutamente di riprendermi, ma mi hanno rimandato in campo, non ero affatto lucido, non ricordo assolutamente niente di quello che è successo in quella frazione finale di gara, da quando sono stato colpito a quando, diciamo, a forza sono stato rispedito in campo, per evitare di lasciar pensare agli avversari che io fossi stato, agli avversari e anche al pubblico probabilmente, che io fossi stato in qualche modo ferito, in qualche modo colpito troppo duramente. E per chiudere vi voglio leggere alcune parole molto significative che si occupano proprio della radio, quindi del mezzo che state ascoltando e del mezzo che stiamo facendo in questo momento. Sono pensieri da incorniciare e li prendo da Wired, Wired mensile che questo mese è dedicato agli under 21, che i giovani che stanno in qualche modo cambiando la rete con le loro idee, il loro approccio, le loro proposte. Per questo articolo vi rimando appunto a Wired stesso. Invece vi voglio leggere qualcosa che compare in ultima pagina nella rubrica pensieri da incorniciare. Leggo: la peculiarità dell'uomo consiste, penso, nella capacità di scambiare con i suoi simili pensieri, sensazioni, desideri, ideali, preoccupazioni e anche lamentele. Ebbene, nella radio abbiamo uno strumento appropriato per unire i popoli del mondo, per far sentire le loro voci, le loro necessità e le loro aspirazioni. Il significato di questo moderno mezzo è così del tutto rivelato: una larga via di comunicazione per il miglioramento delle nostre reciproche relazioni. Oggi è a nostra disposizione, dobbiamo solo seguirne il corso in uno spirito di tolleranza e di comprensione solidale. Queste parole sono state pronunciate da Guglielmo Marconi nel 1937, furono trasmesse da Roma a Chicago, una sorta di testamento scientifico di Guglielmo Marconi. Mi sembrava interessante proporvelo questa mattina in chiusura della nostra trasmissione. Vi ricordo che potete risentire questo programma sul nostro sito www.radio24.it. Ringrazio Pietro Lacorte, che anche questa mattina mi ha accompagnato in regia. Grazie anche a Manuela Sicuro e Vittoria Mussini, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A sabato prossimo.